get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte e benvenute alla trasmissione numero 124 di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa. E oggi qui con voi ci siamo io, Tania e Annalisa. E siccome siamo tornate da Bari da due giorni, non potremo fare a meno di raccontarvi del Pride. E poi comunque abbiamo tanti appuntamenti da dirvi qui a Roma e fuori, ma come sempre vi invitiamo a inviarci i vostri contributi, suggerimenti, commenti, poesie e storie al nostro indirizzo email, che è contatti@clrbp.it. Ma se volete semplicemente salutarci, allora chiamateci qui in radio allo 06 49 17 50 e aspettiamo i vostri trillini sui brani che abbiamo scelto. E ora partiamo con la musica. Senden öncesi ne senden sonrası ne senden öncesi ne senden sonrası Yeri cihan dolandım Allora, come gruppo, come CLR, in genere non abbiamo molto i Pride, perché sono in genere nemmeno vi partecipiamo, perché è un evento i cui contenuti e differenze politiche non riescono a venire fuori. E come gruppo, come sempre come CLR, abbiamo partecipato invece per esempio al Pride del 2000, anche attraverso spazi ed eventi politici organizzati autonomamente, perché ritenevamo in quell'occasione che fosse un evento carico di molti contenuti politici e non a caso infatti in quell'occasione c'era gente da tutto il mondo. Invece in questo caso a Bari come gruppo abbiamo aderito alle iniziative separatiste delle Desiderande, che hanno organizzato un convegno sugli spazi lesbici separatisti, invitando dalla Francia Jacqueline Julien di Bagdam Café e Giovanni Olivieri di Roma. E invece a titolo personale siamo andate del gruppo, io, Annalisa e Francesca, alla sfilata, ed eravamo ovviamente felici di raggiungere le nostre amiche del gruppo di Bari Le Desirande con cui condividere questi eventi. Annalisa non ridere. Eh sì, perché comunque questo evento era particolare, perché comunque era un Pride a Bari, perché riteniamo anche dopo esserci state che sfilare a Bari non è mica come sfilare a Roma. E infatti Bari è una cittadina comunque provinciale dove molti si conoscono e tutti ti raccontano. Io temevo anche che saremmo stati troppo pochi alla manifestazione, invece si è parlato di cifre che si aggiravano intorno alle 35.000-45.000 presenze. Personalmente ho sentito una grande tensione negativa soprattutto all'inizio del percorso, lì dove morbosamente siamo radunati soprattutto uomini, giovani e meno giovani. La cosa che più mi ha impressionato è stato vedere così tanta gente sui marciapiedi, e che questi non erano nemmeno abbastanza larghi per contenerla. In alcuni punti infatti si riusciva a sfilare solamente in 3-4 alla volta per la ressa che c'era. Oltre a tante frasi offensive, che c'è stato anche chi ha lanciato dell'acqua, chi pomodori, ma fortunatamente invece altri hanno anche lasciato cadere fiori da balconi. Per le Desiderande di Bari il rischio che fossero riconosciute era alto, e quando molte le ho viste sfilare mi sono sentita very pride. C'era per esempio Rosy, insegnante alle scuole medie, che in continuazione salutava gente ferma lungo i bordi che la conoscevano. C'era Elena, che aveva molta paura e che invece è rimasta fino alla fine. E c'era anche sua sorella, che nonostante etero, sposata e con figlio, i colleghi meravigliati e contrariati le hanno suggerito di assistere dal marciapiede. E poi c'erano tutte le altre nostre amiche, Vinci, Giulia, Serenella, Antonella, Pina e altre che si sono aggiunte dietro il loro striscione. E una cosa che mi ha fatto piacere in questo Pride è stato a un certo punto quando ho sentito qualcuno che diceva: posso sfilare con voi alle Desiderande, che non so più dove andare. Ed era Rosaria Iodice, l'organizzatrice ufficiale del Pride, e con cui ovviamente ci sono state delle difficoltà, ma con cui quando ci sta poi della correttezza politica nei rapporti, poi questi ovviamente si riesce comunque a trovare una via di collaborazione. E per quanto riguarda le lesbiche, di cui si è anche parlato molto poco nei giornali, noi possiamo dire che questo è lo spezzone lesbico, lo aprivano le Desiderande, che operano da più di 10 anni a Bari, e a seguire c'è un altro gruppo separatista, e questo ci ha fatto molto piacere, c'è Fuoricampo di Bologna. A seguire poi c'era Arcilesbica Mediterranea di Bari, Arcilesbica di Roma, e c'erano tante singole presenze da tutta Italia. Ma intanto adesso vi mandiamo altra musica. Eccomi qua. Allora, buonasera a tutte. Non è colpa della grande technical mixer che oggi è Tania, ma è colpa mia che non avevo messo su con il microfono, molto banalmente. Allora, il primo bacione è per Caterina che ci sta ascoltando e come sempre un bacione, lei è la grande maestra della radio, ogni volta che so che ci ascolta vado un po' in tensione perché lei è scioltissima, lei è Rosina, invece noi puntualmente. E anch'io vi volevo dire le mie impressioni sul Pride, perché naturalmente dopo tanta emozione a sfilare anch'io provenendo da Napoli ho veramente sentito fortissima questa emozione di vedere tanta gente attorno in festa che ci guardava quasi insomma esaltate da noi che eravamo così belle colorate che sfilavamo. Il giorno dopo naturalmente insieme alle donne delle desiderande ci siamo messe a caccia di qualche articolo interessante sui giornali e quindi io li ho portati un po' qui in radio e vi devo dire che tutti gli articoli, a parte che stavano nella sezione diciamo proprio di Bari, per cui chi abitava a Roma sicuramente avrà letto quelle quattro righe della Repubblica Nazionale che ha detto giusto erano in 40.000, la sfilata a Bari, tutto a posto. Mentre invece naturalmente nella parte, quella proprio apposta di Bari, ci sono numerosissimi articoli e quello che mi ha colpito di più è che la maggior parte di questi articoli parlano di una sfilata bellissima senza eccessi, ecco, senza eccessi, puntualizzando che non ci sono stati non c'è stato niente di scandaloso, niente poverini da raccontare, chissà che cosa si immaginavano che facessimo noi gay trans durante una sfilata per il Pride, e invece diceva appunto che cioè è stata una grande festa e alcune addirittura è fin troppo ottimista perché addirittura scrive secondo i gay che abbiamo vinto e crollato il muro del pregiudizio, mentre secondo me naturalmente una sfilata di un giorno non può cambiare la mentalità di intere generazioni. E un'altra cosa che mi ha colpito invece erano le persone anziane, soprattutto le signore, questo anche è stato riportato su un giornale, che hanno guardato me, diciamo alcune signore anziane, ma comunque anche altre, sembra che abbiano detto siete proprio una brava persona, che è uno dei più alti complimenti che si possa avere al sud, infatti io lo confesso molto molto emozionata. Qualcosa di politico forse lo scrive la Repubblica che tra gli altri articoli colorati, folcloristici, e questa è una delle ragioni per cui spesso il CLR non se la sente di appoggiare una manifestazione di un solo giorno, sempre la Repubblica di Bari, però nella sezione Bari, che tra gli altri articoli, quelli più colorati e folcloristici, parla appunto delle richieste del mondo gay, citando naturalmente le unioni di fatto. Mentre sappiamo che a parte i gruppi separatisti, ma c'è anche una mail che ci è arrivata dall'Open Mind di Catania che ci invita al loro Pride, che loro veramente nel profondo sud a Catania il 28 giugno dicono che non è possibile ridurre un Pride soltanto a una richiesta di diritti civili, quando parte della comunità gay, lesbica e trans non è d'accordo con queste unioni civili, perché significherebbe in qualche modo omologarsi a una società verso la quale dovremmo rivolgere la nostra lotta. E a parte quindi le unioni di fatto e i diritti della coppia, questo Pride vedeva anche altri argomenti, diciamo, altre cose da portare avanti, tra cui la più importante è sicuramente la discriminazione sul posto di lavoro. E di questo appunto fa un breve schema la Repubblica e null'altro, veramente null'altro. La Repubblica, che poi mi ha fatto innervosire a un certo punto, pensa Tania, te lo raccontavo prima, perché tra le varie cose che dice, che fanno capire come sono poco addentro forse i giornalisti anche a quello che è la politica che circola nel mondo lesbico soprattutto, parlano di Imma Battaglia come la leader delle lesbiche romane. Ora, io senza nulla togliere a Imma Battaglia, che è un grande personaggio, che sicuramente molto ha fatto per il Pride del 2000, credo che lei stessa... che lei stessa non... Io infatti vorrei scrivere a questo giornalista Cesare Carlucci che non è possibile sicuramente definirla in questo modo, in quanto lei stessa a un certo punto di un'intervista dice: che cosa sono, donna o uomo? E ancora dice: poi le mie scelte sessuali, mi emoziono per le donne ma mi piace molto il corpo degli uomini, forse mi piace di più fare l'amore con gli uomini. Che cosa sono allora, lesbica, etero o bisessuale? Io dico lesbica per questioni di praticità politica, solo per quello, ma è un'etichetta che mi va stretta, non mi sento né donna né uomo. E purtroppo mi dispiace a volte essere napoletana, perché lei si sente uno scugnizzo napoletano, però io mi sento una scugnizza napoletana, quindi forse è meglio così. Speriamo che le lesbiche che ci ascoltano siano un po' più, anzi molto più politicizzate di Imma Battaglia, che non lo è affatto. E poi sulla festa, la festa della sera, tutti i giornali tranne un piccolo trafiletto della Gazzetta del Mezzogiorno parlano di questa festa bellissima a Torre Quetta, dove molte nostre amiche sono andate a vedere, siccome era aperta a tutto, c'erano appunto donne con i bambini, persone curiose e quant'altro, mentre invece forse la festa più bella l'abbiamo vissuta io e Tania, che ci siamo fiondate a quella organizzata dal Desiderande, direi pure di mandare a loro un grosso bacio se ci sono in ascolto. L'hanno organizzata in collaborazione con Arcilesbica di Bari. Arcilesbica di Bari, è stata una festa meravigliosa al centro ippico, però non c'erano i cavalli, c'eravamo noi scatenatissime, è stata una festa veramente molto bella come sempre, molto accogliente. Che altro su questo Pride, che ci lascia tanta emozione addosso e tanta voglia di fare ancora tanto, perché poi all'incontro delle Desideranti è stato, poi alla fine questo è quello che forse colpisce di più, ritrovare questi spazi lesbici separati, come costruirli, come andare avanti, come avere energia per sostenere questo progetto che è in mente in ognuna di noi del CLR. E come sia stato anche bello che molte donne abbiano seguito questa iniziativa separata, che appunto non faceva parte dell'organizzazione ufficiale del Pride. Sì, infatti. E su questo? Sì. Basta così, peccato per chi non c'è venuta, però anche insomma è stato molto bello. Non ci sono più certezze a questo mondo. Infatti in un mondo in cui il più grande giocatore di gruppo è un nero e il più grande rapper mondiale è un bianco, c'è rimasto una sola certezza, che l'Inter non vince mai niente. Just because you're down, I Just 'cause you're blue don't make me too. Though you found you need more than me, don't talk to me about being free. That's freedom without love, and magic without love. Scusate, non vi abbiamo detto niente sulle canzoni che vi abbiamo fatto ascoltare. Prima c'è stata, vi abbiamo fatto sentire Sezen Aksu, non mi chiedete il titolo. Poi avete ascoltato Angelique Kidjo, Never Know. Poi Tricky, Overcome. E ora i Massive Attack, Better Things. Vi volevo leggere alcuni pezzi di un articolo uscito su Alla Pari, periodico del servizio per le pari politiche di pari opportunità della regione Emilia-Romagna. È un articolo, un'intervista a Lidia Ravera, giornalista e scrittrice che scrisse un libro Porci con le ali, ed è un'intervista a cura di Luisa Stanzani. E le chiede appunto di sintetizzare la sua proposta. E quindi in Italia sono pochi coloro, e questa è il, scusate, il titolo è Prostituzione, cose mai dette. In Italia sono pochi coloro che pensano in modo veramente laico. Io mi trovo quasi sempre isolata, perché per me il commercio sessuale è lecito. Non lo reputo moralmente riprovevole. Penso che il piacere sessuale sia un piacere come un altro, e non credo si debba sindacare la necessità o la scelta delle persone di rivolgersi al sesso mercenario piuttosto che a quello contenuto in una relazione affettivamente gratuita. Io personalmente opto per quella gratuita perché mi conferma nella mia seduttività, ma non ritengo che l'alternativa a pagamento vada stigmatizzata. Parto dal presupposto che chi presta il proprio corpo per denaro lo faccia per la libera scelta professionale, e francamente non ci vedo niente di male, finché tutto resta nell'ambito della libertà. Sarebbe più opportuno concentrare gli sforzi economici, organizzativi e legislativi sul fronte della lotta alla prostituzione coatta, lasciando invece da parte chi decide di vendere liberamente il suo corpo. La mia proposta potrebbe essere riassunta in tre punti. depenalizzazione totale della prostituzione volontaria, persecuzione dello sfruttamento e delle nuove forme di schiavismo, servizi di prevenzione sociosanitaria accessibili e aperti per migliorare le condizioni di chi si prostituisce. Poi continua dicendo, e sarò comunque breve nella lettura dell'articolo, dice: secondo me tra adulti consapevoli e consenzienti non devono essere punibili né pornografia né prostituzione. Perché si dovrebbe perseguitare chi risolve i suoi problemi di piacere pagando anziché comprandoli a mezzo matrimonio? Dov'è il crimine? In una società che usa il corpo femminile come lo usa e basta accendere la TV o guardare le copertine di settimanali importanti, tra virgolette, come Panorama, c'è una grossa contraddizione. Da una parte non si fa che provocare sessualmente, esibendo corpi di donne giovani svestite in pose seduttive, e dall'altra chi ha solo il suo corpo da vendere, vende il suo corpo. Lo puoi vendere facendo l'operaio in fabbrica, e lo puoi vendere alienando una parte per il tutto e dando piacere agli uomini a pagamento. E su questo, in cui immagino che molte non si troveranno d'accordo, vi facciamo sentire un altro po' di musica. Something evolving, whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near, but to me it seems quite clear that it's che ripeto scusa. E questo era un bellissimo brano, almeno io lo amo, di Propeller Heads, History Repeating. Chissà se la pronuncia è buona, se no vai Tania, dai, Sì. Allora, prima di proseguire, cominciamo con tanti appuntamenti abbiamo veramente, e vi passiamo quindi la sigla degli appuntamenti. Pochi trillini stasera, quindi dove state? State dormendo, non ci state ascoltando, traditrici? Allora, io vi ricordo il numero, perché magari è solo quello che vi siete dimenticate. Allora, potete telefonare ancora per poco, siamo qui ancora una mezz'oretta. Io e Tania, eccoci siete allora, 06 49 17 50, grazie mille, siete proprio care. E partiamo con gli appuntamenti, Tania, dai. Gli appuntamenti. Allora, vogliamo ricordare che l'appuntamento del giovedì con Les Bollywood si è concluso per ora, fino all'estate, e che riprenderemo ad ottobre. Comunque, per tutte voi che sicuramente starete sulla nostra mailing list, si dice, ve lo faremo sapere ovviamente in tempo. E dopo il successo di Tipping the Velvet vi ricordiamo che siamo sempre aperte comunque a consigli su nuovi titoli o titoli che andrebbero rivisti, e ancora una volta vi invitiamo a telefonarci o adesso in radio un mercoledì alle 21 alla nostra sede allo 06 68 64 201, o via email al nostro indirizzo contatti@clrbp.it. Intanto, siccome non ci potete abbandonare, per giugno, anzi più precisamente per questo venerdì, abbiamo preparato questo grande evento, e quindi il coordinamento Lesbiche Romane insieme a Arcilesbica di Roma e il collegamento Lesbiche Italiane vi invitano a una bellissima festa, le Malafemmine. E questo venerdì 13 giugno alle 8, alle 20, al Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B. La serata è in sostegno di due donne costrette a lasciare Roma, la loro città, per sfuggire alle minacce delle... Annalisa, vuoi dire? Sì, voglio dire che chiamandosi le Malafemmine sono state costrette a lasciare la loro città, però non sono proprio di Roma. Vabbè, sì, grazie. Sì, quindi le rispettive famiglie hanno veramente creato loro grossissimi problemi, e quindi l'incasso della serata servirà a sostenere la fuga d'amore delle nostre eroine. Il programma della serata è alle 20 proiezione del film Lady Oscar, alle 22 cena buffet da noi preparato, attenzione attenzione, al Centro Femminista Separatista, e alle 23:30 si aprono le danze. Ovviamente le apre Annalisa. Vi invitiamo a portare tutte le amiche che volete, ovviamente è una festa per sole donne, e a venire in tante a questo evento. Ingresso 5 euro e per informazioni al Centro Femminista Separatista 06 68 64 201 e via email contatti, ve lo ripeto, @clrbp.it e sito web www.clrbp.it. È arrivata proprio oggi una mail di una ragazza che spero sia all'ascolto, è carinissima, perché mi ha chiesto se doveva prenotare perché voleva portare un po' di amiche, magari noi dovessimo, cioè siamo costretti a dire non potete più entrare se siete più di 200-300. venite in tante, sosteniamo queste due donne che sono state coraggiosissime, perché non è facile lasciare la propria città e trasferirsi in un'altra città e cercare lavoro e nascondersi continuamente per amore, pensate. E io, che oggi tra l'altro sostituisco la nostra carissima Ada, che io saluterei perché era stanca, povera cucciola, però sarà sicuramente all'ascolto. Perché anche Ada è venuta al Pride. Sì. Infatti, vabbè, sì. Dopo la festa di venerdì è crollata. E comunque, in occasione, però una cosa carina forse l'ho fatta, perché ho portato una canzone ad hoc per la nostra festa, per invitarvi veramente a venirci a trovare, venite e mangiate le prelibatezze che Tania e le altre hanno preparato per voi, perché io non mi ci metto in cucina, io posso solo chiacchierare amabilmente. E per voi questo brano, vediamo se lo riconoscete, è in inglese, ma è un brano famosissimo a proposito di Malafemmine. Interpretazione molto personale di questa artista inglese, Blessing. Ah no, la canti molto meglio tu in napoletano. Femana, si tu begge na vivra. Mento sagato l'anima e so non posso più campare. Questo diventa un karaoke qua. E su queste note dolcissime, purtroppo è volato il tempo oggi. Compagna, vola sempre il tempo. E dobbiamo mandare la sigla finale, però rimanete con noi, con me e con Tania, perché noi andiamo ancora un quarto d'ora in diretta. Martedì prossimo andrà la replica di questa, però rimanete con noi dopo la sigla finale, ancora noi, e quindi potete ancora telefonarci. Non mi avete fatto manco un trillino su mezza canzone che vi ho fatto, va bene, grazie. Non vi piace come canto? Perché se non canto muore. A dopo! Avete ascoltato